YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Eccoci, eccoci con RadioTube. Ti ricordi quando dicevamo la trasmissione Dimmi. Che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo, eppure imperdibile della settimana tra TV, TV. Cos'erano? Quattro anni fa, Marta? Erano quattro anni fa. Questa 100? È la 197. Ma soprattutto è una puntata facile, è no? È una puntata facile, non diciamo perché. No, non ve lo diciamo perché. Non ve lo sveliamo fino alla fine. Esatto, state rimanete lì con noi per tutta l'ora perché avremo degli ospiti straordinari. E poi una sorpresa finale. Vabbè. Non create aspettative. Invece createvele. Chiocciola Marta Cagnola, chiocciola di Bellasio, cancelletto RadioTube. Cancelletto ISDB. Ah certo, anche se perché sempre il sabato il villaggio è sempre con voi, anche se in questa versione un po' più cortina, così molto estiva, come un po' balneare. Bermuda, allora, una versione Bermuda del sabato del villaggio. Allora, Fiorello anni fa. Chi è stato? Qual è stato il primo audio che abbiamo mandato in onda? Ma io non mi ricordo il mio codice fiscale, figurati se mi ricordo. Abbiamo mandato in onda un audio di Fiorello. Ma dai, ma nel numero zero o nella trasmissione vera? No, nella trasmissione vera, anche perché vorrei raccontare agli ascoltatori che quando noi abbiamo fatto il numero zero, abbiamo fatto un numero zero quasi a caso, nessuno sapeva cosa... Sì. Cioè, però era bellissimo, non è andato in onda, era una trasmissione molto meglio dei quattro anni successivi. Esatto, però, ma purtroppo non è mai andato in onda, no. E soprattutto quando abbiamo presentato la trasmissione non abbiamo detto a nessuno quello che avremmo fatto, non è che lo sapessimo. Si fidavano di noi. Si fidavano ciecamente. Si sono fidati di noi. Ma finora. Fantastico. Allora. E Fiorello cosa avevamo mandato in onda? Un'edicola? Sì, perché aveva cominciato a fare i suoi primi esperimenti e sperimentoni, o ne ha fatto un altro questa settimana. Allora, io sono serio? Sì, questa cosa serio. È una svolta di quello che può accadere sui social quando tu hai un grande professionista della comunicazione, già noto al grande pubblico grazie anche alla televisione internazionale, internazionale, anche alla rete, e che sa sperimentare e usare anche i nuovi strumenti. Va in onda Alza Bandiera, programma radiofonico irradiato dalle frequenze di Instagram. Sottotitolo: il programma che non si vede. Allora, perché dice il programma che non si vede? Perché, allora, diamo una piccola spiegazione per coloro che non usassero Instagram. Instagram è quel social network che si basa sulle foto. Sì, si basava, okay, sulle, si basava foto. Sulle foto. Poi sono arrivate le stories, yes, cioè quelle foto o brevi video con scritte, quello che volete, filtri. Qualcosa tipo Snapchat. Cioè dei piccoli flash di vita che scompaiono entro 24 ore. Poi sono arrivate le dirette, yes, e quindi si possono fare questi brevi filmati in diretta. Lui cosa si è inventato? La radio, quindi solo l'audio, e tutti mandavano i commenti con scritto ma non si vede perché è tutto nero, e lui dice non si vede perché è radio. È radio, quindi lui ha fatto la radio solo con la diretta di Instagram. Esatto, come noi abbiamo fatto la televisione in radio per quattro anni, lui ha fatto la radio in una che potrebbe essere la televisione del futuro, però è Fiorello. È fantastico, io mi sono divertita molto, secondo me è ragazzi stato prendete appunti perché nel futuro c'è molto di questo, veramente molto di questo. Ma i social network hanno, abbiamo tentato di raccontarlo un po' in questi anni, raccontando anche come dire scenari di crisi. I social network hanno un'altra funzione, che è una funzione di raccontare al mondo quello che una volta non si poteva raccontare in modo libero. Per esempio, questa settimana è successo ed è arrivato sui network internazionali il fatto che una nota social, come si può dire, influencer, modella, una personalità della rete, brava, in Arabia Saudita ha mostrato, lei per la verità ha detto che non è stata lei a voler mostrare, insomma, un video di lei in minigonna che cammina in un deserto in vuoi mostrarlo? Sì, vorrei mostrare. Vai. Il servizio di Euronews che è andato in onda così. A social media star in Saudi Arabia is being investigated by authorities for wearing a miniskirt in public. The woman known as Khalood shared a video of herself walking around an historic site in the Gulf. Allora, lei è una social media star, una star dei social media in Arabia Saudita. ovviamente per la nostra cultura niente di scandaloso. Lei ha una minigonna normale ed è un video molto normale per la nostra cultura niente di scandaloso. Lei semplicemente sta passeggiando. Ovviamente avviene in un'altra zona del mondo in cui la cultura e la religione sono molto differenti. Questa cosa ha avuto... Lei è stata fermata, il suo video è stato diffuso ovviamente in tutto il mondo, ha raggiunto le prime pagine dei giornali anche italiani. E insomma, i social network spesso criticati anche come finestra non soltanto per vedere dentro un mondo, che a volte ha anche i suoi problemi, la rete, ma anche per farsi vedere nel resto del mondo e a volte, come in alcuni casi di questo tipo, per segnalare delle problematiche importanti. Ah, forse per condizionare un po' anche l'opinione pubblica, certo. Chi lo sa. Per raccontarci delle storie. Per raccontarci delle storie, per parlarci di personaggi interessanti. Allora. No, questo non è un personaggio interessante, ma è un problema, perché qui noi abbiamo Christian Goldoni in regia che sta soffrendo del fatto che la sua Lazio sta perdendo dei pezzi pregiati, ma ne ha anche presi di importanti, io lo sto rassicurando. Uno di Lucas Leiva, lo voleva la nostra cara Inter l'anno scorso, ma uno dei più importanti, mm-hmm. Biglia, che poi non ho capito se si dice Biglia, come dicono alcuni, Biglia. Secondo me lui si direbbe Biglia, perché secondo me è un cognome italiano, ma evidentemente non essendo italiano. Insomma, lui è stato preso dal Milan. Il problema è che quando è arrivato, dopo la notizia e tutto il resto, non ha proprio detto forza Milan. Vuoi sentire? Dov'è che l'hanno trovato? Dov'era Milanello? Era Milanello. Pensa cosa gli è venuto in mente di dire, un genio. Sentiamo. Senti. Luca, dici due parole per la Milano rossonera, dai. Forza Lazio. Grazie. Lucas, partiamo male. Di due cose per la Milano rossonera, forza. Non, io non lo dico, però forza. Allora, prima della trasmissione, stavo parlando con Christian. La mia tesi è questa: secondo me lui voleva fare, come spesso capita, un saluto alla vecchia squadra, dire resterete sempre nel mio cuore, come ha fatto Bonucci con la Juve. È la versione di Christian, si è confuso. Magari l'italiano, qualche problema con la lingua, ha detto le parole che aveva imparato, però nella precedente forza Lazio. Magari gli ha detto che significa buongiorno a tutti. La fascia di capitano l'avevano già data a Bonucci, se no era ad onore ma Biglia, forza Lazio. Tra l'altro forza Lazio, peraltro la Lazio è gemellata con l'Inter, quindi è triplo. Infatti. Ma se parliamo di sport e di personaggi della settimana, Ma come puoi dire? Allora, io lo dico sempre, io sono più affezionata al tennis degli anni Ottanta, ovviamente. Sì, certo, io da ragazzina ero innamorata. Siamo affezionati alla nostra giovinezza. Non solo, io non mi sono ancora fatto una ragione che alla fine Boris Becker non mi abbia sposato, perché doveva sposarmi. Tra l'altro ne ha sposate 4-5, per sbaglio. Nel mucchio. No, niente, non mi ha mai sposato, quindi io sono sempre affezionata. Però, sei ancora in tempo, telefonatevi. Sì, anche se ultimamente mi pare caduto un po' in disgrazia economicamente, magari mi sposa per interesse. Ma per quello, ma dai! Magari mi sposa per interesse, perché io sono possidente. Ci siamo avvicinati al tennis. Tra l'altro Becker ha fatto anche l'allenatore, però non di lui. No. Allora, Roger, di lui, Roger Federer. Ragazzi, allora la finale non è stato un granché, ma chi se ne frega, non è stato un granché, perché Cilic aveva qualche problema, signorile, molto signorile, però non ha perso neanche un set, è all'ottavo, cioè è, io non lo so, c'ha praticamente la mia età, adesso non esageriamo, però insomma, però non è più alle... ce l'abbiamo, sentiamo cosa dice Roger Federer. So it's very special, and then of course from day one to finals day, center court's always packed, and we the players appreciate that so much. So it's a dream to play here, really, and I hope this wasn't my last match, and I hope I can come back next year and try to defend the title. Cioè, spero di tornare l'anno prossimo. Di difendere il titolo. È nato l'8 agosto 1981. Sì, ce n'ha 36. Ma tra l'altro in rete questa settimana un'esplosione di cose virali legate anche alla sua attività di beneficenza. Vuoi raccontare perché? Sì, no, lui è veramente un grande personaggio. Scuola in Malawi, milioni di euro. E poi mi piace il fatto che sia svizzero, in Svizzera c'è un grande affetto nei suoi confronti. Ma poi l'eleganza, la raffinata, ce le ha tutte. Sì, veramente, è veramente un signore, mi piace molto. Appunto, io pur con questo antico amore per il... rovescia una mano, ancora rovescia. Vabbè, comunque. C'ha qualcosa degli anni Ottanta. Attenzione, tu dicevi giustamente, vero. C'ha gran parte della classe che avevano alcuni tennisti di allora, ed è questa una delle ragioni del suo successo anche sì, di pubblico. Sì, che insomma poi sono arrivati un po' più picchiatori. Oddio, io avendo citato Boris Becker è stato uno dei primi a picchiare duro. Però sì, c'è quell'eleganza, quella signorilità anche nel gesto. Vabbè, che ma bello adesso... parlare di tennis. Allora, adesso io invece vorrei parlare di musica. Secondo me parliamo tanto di musica in questa trasmissione, sì. Però non subito, non no, subito, perché dobbiamo dare una brevissima pausa. Traffico e poi ci ritroviamo insieme ancora con Radio Tube. Radio Tube. I gobbi vendono, al Milan comprano, io son qui che aspetto ancora Di Maria in Angola, porca puttana. Chi è che dice queste parolacce? Cioè, io la conosco questa canzone, ma non è la versione che conosco questo io di Riccione. Questo è il vero tormentone dell'estate, è Riccione dei giornalisti, Tommaso Paradiso, rivisto da Luca Mastrangelo in, diciamo, in funzione interista depresso, perché siccome il Milan continua... Ah, il famoso youtuber interista, quello che dice infatti un sacco di parolacce. Dice qualche parolaccia, ma al di là delle parolacce sa esprimere al meglio diciamo l'estate del nostro discontento, malcontento. Vabbè, posso dire scontento. Che dopo anni che vincevate lo scudetto tutti le estati... Brava! Magari quest'anno? Quest'anno? Brava! Vabbè, ma vuoi parlare di tormentoni, quindi? No, dai, voglio parlare appunto di tormentoni. Fenomeni, più ne grazie. Abbiamo parlato per un po' di settimane, ci siamo chiesti quale sarà, quale non sarà. Tra l'altro io dopo ho ne un'idea, parliamo. Ho dopo un'idea, ne riparliamo. Ma dopo. Ma si può fabbricare un tormentone su misura? Mi sono chiesta. Se uno è un genio. Allora, io vi proporrei di ascoltare qualche nota di questa canzone che sicuramente avete già abbondantemente sentito. Oggi vi racconto una storia. Una storia vera. Una storia di vita. Una storia fantastica. Mi ricordo quel giorno come se fosse ieri. Forse era ieri. Mia madre era tornata dall'Esselunga. Sì, dall'Esselunga. Aveva qualcosa con lei di insolito, strano. Io mi chiedevo che cosa fosse, non lo sapevo. Poi ho visto che erano rotonde, mi sa proprio che erano le focaccine. Ho detto mamma mi ha comprato le focaccine. Lei mi ha detto certo. Ma io la volevo ascoltare tutta. No, c'è Daniele che mi fa cenno, ma queste sono le focaccine dell'Esselunga. Ma io non allora, lo so. Allora, intanto so. Mezza Italia che non ha l'Esselunga si chiede il perché. Da Roma in giudice. Esatto. E tanto ormai è arrivata anche a Roma, quindi adesso anche a Roma sanno cos'è. Nota catena di supermercati che ha delle panetterie al suo interno che vendono queste focaccine che sono effettivamente sono buonine le ma focaccine dell'Esselunga. Il problema non è la focaccina in sé, no. È perché questa canzone stonata e abborracciata diventa una cosa virale in tutto il mondo. Cosa fai? Cosa clicchi? Cosa cerchi? No, sto cercando perché sai che io ho letto un pezzo molto interessante che mi dà te l'ho girato io ma sai che non mi ero accorta che me l'avevi girato tu. Io invece Cristian Goldoni, no, regia, ci siamo diglielo. Arrivati per due vie diverse perché io invece l'ho letto perché me l'ha segnalato un amico del Sabato del Villaggio di Radio Tube che è Gianni Sibilla di Rockall e mi ha detto no ma c'è l'intervento più interessante è quello esatto di Franco Zanetti direttore editoriale di Rockall che infatti noi abbiamo al telefono. Ciao Franco. Ciao. Buongiorno. Allora, buongiorno. Il caso, la polemica. Intanto, voi come vi siete accorti di queste focaccine dell'Esselunga? Io me ne sono accorto perché me l'hanno detto, perché non frequento né Spotify né i social e quindi mi hanno detto, sai che sta girando questa cosa? E me sono andato a informarmi. Non so perché, forse perché io sono stupido, ho subito pensato che fosse uno scherzo. Mm-hmm. E mi ha stupito leggere un sacco di articoli in cui tutti se la prendevano con questa canzone perché è uno scandalo che una canzone così sia virale, ci sarà dietro qualche cosa, c'è un trucco, c'è Spotify, c'è un fake artist. Cioè, io non so, sarà perché io sono cresciuto ascoltando Alto Gradimento, mi sembrava l'uva folgarina di Alto Gradimento. Ah, certo, okay. Grande citazione, grande Franco. È una roba che uno si è inventato per ridere. Tu sai che io ho una storia lontana, passata di scherzi di Pesci d'Aprile, il mio disco di Lucio Battisti inventato. Che aveva ma certo, che qualcosa, insomma, ne parla anche Mario Luzzatto Fegiz nella sua autobiografia, che è stato lo scherzo in cui lui è cascato clamorosamente. Io ho pensato, questa cosa avrei voluto farla io, se fossi capace di farla avrei voluto farla io. Mi sono chiesto chi potrebbe averla fatta, ho telefonato, anzi ho mandato un SMS a colui che io pensavo potesse averla fatta, e lui mi ha risposto con un'immagine, con un SMS, con un'immagine di una confezione di focaccine. E quindi va bene, capito, grazie. Allora cosa c'è dietro a queste focaccine dell'Esselunga? La genialità dell'assurdo. C'è dietro uno che ha deciso di prendere per il naso il meccanismo per il quale basta dire che una cosa è virale e diventa virale. Esatto. C'è uno che ha deciso di prendere per il naso un genere, un sottogenere musicale che io nel mio articolo ho chiamato il trap, forse perché il trap marchio, calcistico, e pensavo all'allenatore che mi hanno subito rimproverato perché si dice la trap o la trap, non so. Basta informarsi se una sedicente o cosiddetta canzone dispone di un codice ISRC, che è quello che identifica un brano messo in vendita, allora forse è una canzone, un'operazione commerciale. Se non ce l'ha, non è un'operazione commerciale. Adesso io vorrei sapere, in questi 15 giorni, 20 giorni che sono passati, chi si è premurato di andare a verificare, di quelli che dicevano una vergogna, se questa canzone ha l'ISRC. Perché se non ce l'ha, è l'uva fogarina. Allora è uno scherzo. Vedi che ci sono, ci sono delle malizie, delle cose tecniche anche da controllare. E non mi interessava più. Cioè, uno scherzo ben riuscito. Non è... Io mi occupo di musica, di canzone, non sto dicendo che la trap non è musica. Franco, ma secondo te si possono costruire, appunto, esatto, per dire tormentoni a tavolino? Sto ad esempio pensando al caso di Cambogia, cioè l'indie, il fenomeno indie finto creato per, certo, ispirandosi a Calcutta o ad altri. Quella è un'altra operazione meravigliosa che anche quella avrei voluto farla io. perché bisogna prendere gli ingredienti che quelli che scrivono adesso considerano importanti, metterli insieme, shakerarli, una volta ci riesci, 9 volte no, magari chissà quanti ci hanno provato a fare la stessa cosa senza riuscirci, e con Cambogia ci sono riusciti. Notissimi siti musicali di musica indie hanno fatto la recensione del disco di Cambogia. Sembra un po' le statue di Modigliani, no? E quelle che avevano trovato. Ci vuole della genialità. Ecco, secondo me ci vuole della genialità, poi ci vuole anche la conoscenza giusta per convincere quelli di una trasmissione pomeridiana di una radio che non siete voi a trasmettere quella roba lì. E qui, però, insomma, in rete si trovano un po' di tracce per capire come sia arrivata a Radio DJ, lo possiamo dire, insomma, il mistero è stato un po' svelato in questo. La mamma che ha comprato quelle focaccine, la conosco. Daniele, non ci sto capendo quasi nulla di quello che state dicendo. Perché io ho promesso che non avrei scritto... Segreto professionale. Esatto. Ma tu fai il contrario dello pseudonimo, diventa un diminutivo. Allora, però, facciamo il processo contrario. Allora, il tecnico capisce che è uno scherzo, ne apprezza la genialità e arriva alla fonte. Facciamo il processo contrario cercando di spiegare come si fa a creare una cosa che dallo scherzo di un singolo o comunque di poche persone diventa una roba di massa. Qual è il primo ingrediente, Franco? Il primo ingrediente è fare qualcosa che sia credibile, okay, che assomigli molto a qualcos'altro che funziona. Ma in questa non canzone, benché l'ambiente sonoro, l'uso dell'autotune. È così esasperato, è così ridicolo, che francamente non puoi pensare che qualcuno abbia fatto quella cosa seriamente. Però è una parodia fatta così bene che probabilmente qualcuno crede che sia stata fatta non in termini in tono parodistico, ma in tono serio. Quindi con una finalità ulteriore, sì, industriale, commerciale. Quando io ho inventato il disco di Battisti, ho preso canzoni molto poco note che Battisti aveva scritto per altri. Ah, okay. Le ho infilate in questo disco finto, ho disegnato una copertina che assomigliava alle copertine degli ultimi dischi di Battisti, e quello a cui nessuno ha badato è che le iniziali delle canzoni facevano la frase pesce d'aprile. Però questo era credibile. Ma degli ultimi dischi di, nel senso di Hegel, Don Giovanni, quelli lì? Sì. Bah, fantastici, sì, migliori. Sì, e ci cascò un notissimo giornalista che appunto l'ha raccontato. No, non ci cascò solo quello. Il Corriere della Sera buttò via 300.000 copie nella notte. Esatto. sì, l'ha riconosciuto Mario Luzzatto Fegiz nella sua autobiografia. Sì. Grandissimo. L'ha riconosciuto e io ho incontrato una volta De Bortoli che mi ha trattato malissimo dicendomi che per colpa sua il Corriere ha buttato questa tiratura nella notte. Però ecco, voglio dire, quello non era un colpo di genio, quella era una roba studiata per dimostrare che i giornali di carta allora rubavano le notizie ai giornali su internet, e infatti era così. Questa è una cosa studiata per dimostrare che la trap è un genere, un sottogenere che si può fare a tavolino, in camera da letto, in salotto, e se lo sai fare diventa credibile. Sono molto contenta di aver parlato con Franco Zanetti, perché ci ha spiegato delle cose secondo me estremamente interessanti e ci fanno capire intanto che non dobbiamo cascare in tutti, tutti gli scherzoni. E ma poi ti ricordi gli Audio 2? No, ma certo, mi ricordo benissimo gli Audio 2 per un mese e mezzo Battisti, meno riuscito Anonimo Italiano, un'operazione analoga di qualche anno dopo che sembrava molto Baglioni. L'Anonimo Italiano? Sì, la storia della musica è piena di scherzi di questo genere, di copertine inventate, un famoso album di Crosby, Stills & Nash che inventò Riccardo Bertoncelli, che la gente andava a cercare nei negozi che fosse vero. Gustosissimo. Ogni tanto bisogna anche riderci sopra. Assolutamente. C'è del genio nella goliardia sempre. Sono d'accordo. Bravo. Goliardia, precisamente. Grazie a Franco Zanetti, direttore editoriale di Rockall, che io lo leggo sempre con grandissimissimo gusto. Grazie Franco, alla prossima, ciao. Ma adesso facciamo una piccola pausa. Facciamo una piccola prima pausa prima di un super ospite. Un tormentonone. Dai, a tra pochissimo. Radio Tube. Stasera ho voglia di ballare ancora un po', non ho bisogno di pensare adesso, no, e tu sarai la mia risposta, forse, già lo so, ma se vorrai ci sarò, accorceremo le distanze. L'estate migliore da vivere, finalmente è arrivato il vero tormentone estivo. Abbiamo scelto, abbiamo pensato quale potesse essere, ne abbiamo citati tutti. Io alla fine ho scelto, caro Daniele, il tormentone dell'estate, siamo l'estate migliore da vivere. Sì. E allora ti faccio un regalo per questa puntata di Radio Tube. Sì. Così la faccio materializzare qui, proprio la plasmo in 3D davanti ai tuoi occhi. Cristina D'Avena! Cristina D'Avena! Ma tra l'altro, guarda che dispiegamento di forza! Dispiegamento di forza. C'è la folla. Una ma perché Cristina se la merita. Cristina, allora, com'è nato questo? Perché non era scontato. Quando io l'ho visto subito sui social, sì. Cristina D'Avena col singolo dell'estate, ho detto, beh, intanto, grandissima idea. Ma sì, secondo me è un disco fresco, estivo, che secondo me appena senti la prima nota sorridi, non so perché, ti viene subito il buon umore, no? La gioia. E poi

Io ho notato che ci sono tanti giovani che escono dai talent, che magari poi non, che ne so, non hanno fortuna come interpreti, ma che sono degli autori meravigliosi, bravissimi. Cioè io ascolto i pezzi dei miei colleghi, poi leggo e dico, ma dai, ma non è possibile. E invece è possibile, perché vedi, ci sono dei talenti che tu devi scoprire. E come fai a scoprirli se non li metti in gioco? Sì. Saggia, brava, bella, spesso io dimenticati. È così, però gli autori fanno i pezzi. Sì. Saggia, brava, bella, e poi soprattutto questa è l'estate migliore che c'è, e io sono molto contenta di intanto sono contenta di viverla, sono contenta che sia l'estate migliore che c'è, sono contenta che quest'estate favolosa abbia anche un grandissimo pezzo di Cristina D'Avena. Io vi ringrazio tantissimo, vi adoro, spero di tornare, magari così vi racconto i miei progetti. Che meraviglia, dai, veramente godetevi, anche perché pare che mi ha ascoltato sto tempo, cioè da quando ho cantato l'estate migliore. È vero. Guarda che sole. Gli agricoltori mi hanno chiamato a casa, mi hanno detto: oh, Cri, fai piovere, cioè, vedi di cantare un'altra canzone, magari alterna. No, però... Anche perché voglio dire, la famosa pioggia, ma sai di che me l'hanno Licia, detto? Ce la raccontiamo, appunto, ce la ricordiamo da decenni. Canterò ogni tanto Kiss Me Licia, perché ti garantisco che si faceva questa. Si parlava tra amici, diceva: Cri, ma ti rendi conto che da quando hai cantato l'estate c'è un sole con sto caronte che arriva, che non c'è mai stata. Un'estate più calda di questa, non c'è. È l'estate migliore che c'è. Grazie Cristina. Ciao, grazie a tutti. Siamo l'estate migliore da vivere. Siamo chi siamo, un colore da scegliere. E tutto ciò che ameremo sarà perché abbiamo scelto l'estate migliore che c'è. Beh, una grande ospite, Cristina D'Avena. Grandissima. Per... Allora, questa 197esima puntata di RadioTube. E per me l'ultima, nel senso che nella vita si fa. La vita è fatta di esperienze. Sì, e quindi sì. Ogni tanto ci sono tra le esperienze i cambiamenti. Okay. Quindi sono chiamato a una nuova esperienza in un altro gruppo, in un altro giornale, Repubblica. E quindi devo ringraziare e salutare tutti. Partendo, dai. Non parlare, questa volta io sto non parlare. Partendo zitta. Da Marta Cagnola, è proprio un grazie enorme, perché oltre al talento giornalistico e oltre alla voce radiofonica, per essere un grande professionista ci vuole il cuore. E lei ce l'ha alla grandissima. Grazie a Cristian Goldoni, che è un fuoriclasse altro che biglia. Grazie a tutta la regia. Un saluto particolare a Fabio Cantadori, detto Rudy. Grazie a tutta la radio e un grazie a Giuseppe Cruciani, perché mi sa che in RadioTube c'è un po' del suo zampino o zampone creativo. Allora, adesso è difficilissimo, quindi io dico solo grazie a Daniele Bellasio per queste 197 puntate che sono state veramente, veramente, veramente molto, molto belle. Allora, sai cosa faccio? Semplicemente do l'appuntamento al prossimo sabato, perché noi saremo ancora insieme col Sabato del Villaggio. E comunque, per tutta estate, qualche ricordo di RadioTube ve lo lasciamo. E poi un grandissimo in bocca al lupo e tante, tante grandi e belle avventure a Daniele Bellasio. Crepi e viva il lupo, ciao!